Se non ha avuto problemi, ascolti il dialogo. Ah, signorina Jenkins, buongiorno. Buongiorno. Mi dispiace moltissimo. Uno stupido errore. Just a mistake. Un errore. Oh, never mind. Senta, scusi, gli Uffizi. Scusi? Un momento, prego. Signora Renzi, mi dica. Gli Uffizi, mi può dare il numero di telefono? Voglio prenotare la visita. Sì, signora.